Il terzo anello, ad alta voce. La montagna incantata di Thomas Mann. Beh, basta così, dichiarò Settembrini con voce leggermente tremula, respingendo il piatto e la tazza che ormai erano vuoti e alzandosi dal serico divano. Basta per oggi, basta, mi pare, per una giornata. La ringraziamo, professore, del saporoso trattamento, della spiritualissima conversazione. I miei amici del Berghof sono chiamati dalla cura e prima che se ne vadano desidero mostrare loro la mia cella qui sopra. Andiamo, signori. Addio, padre. Ora aveva chiamato Nafta addirittura padre. Castorp lo notò, alzando le sopracciglia. Poi uscirono tutti e tre. Lo scrittore si era offerto di accompagnare i due cugini fino a casa. Tacquero per un tratto, ma il loro silenzio era dominato da Nafta e Castorp era disposto ad aspettare. Era sicuro che Settembrini si sarebbe messo a parlare del suo coinquilino e appunto per questo era uscito con loro. Non si ingannava. Dopo un sospiro simile a una rincorsa, l'italiano cominciò. Signori, vorrei mettervi in guardia. Settembrini strinse le labbra. Sicché Castorp si affrettò a soggiungere che per parte sua si asteneva, ben inteso, dal prendere posizione o partito. Gli era soltanto parso utile ascoltare le affermazioni di Nafta intorno alle voglie dei giovani. «Ma mi spieghi adesso, per favore, una cosa», continuò. «Ora, questo signor Nafta, dico questo signore per indicare che non intendo affatto di sostenerlo, anzi, al contrario, mi mantengo molto riservato, e fa benissimo», commentò Settembrini con gratitudine. «Ha detto dunque un sacco di cose contro il denaro. L'anima dello Stato, dice. E contro la proprietà, perché sarebbe un furto. Insomma, contro la ricchezza capitalistica, che, se ho capito bene, sarebbe il combustibile del fuoco infernale. Così ha detto presso a poco, elogiando in tutti i modi il divieto medievale degli interessi. E intanto lui, scusi, ma deve essere... Quando si entra in casa sua, si rimane sbalorditi. E tutta quella seta. Già, sorrise Settembrini, è di un gusto caratteristico. Quei bei mobili antichi, ricordò ancora Castorp, la pietà del secolo XIV, il lampadario veneziano, il servitorello in livrea e la torta con la cioccolata a volontà. Deve pur essere personalmente, rispose Settembrini, il signor Nafta è così poco capitalista come lo sono io. Ma... domandò Castorp. Nella sua risposta, signor Settembrini, manca il ma. Ecco, quelli là non fanno mancare il necessario a chi è dei loro. Chi quelli là? Quei padri. Padri? Che padri? Ma ingegnere, intendo i gesuiti. Seppi una pausa. I cugini rimasero sconcertati e Castorp esclamò. Corpo di un accidente, alla malora. Quello è un gesuita. Lei ha indovinato, disse Settembrini gentilmente. Thank you. Venne così l'agosto, e tra i suoi primi giorni era felicemente scivolato via l'anniversario dell'arrivo del nostro eroe. Se non che Joachim, che per natura era poco loquace, neanche lontanamente come Castorp, che lo era diventato almeno lassù, per non dire di certi umanisti e sofisti di loro conoscenza, negli ultimi tempi Joachim si era fatto particolarmente taciturno. Dalle sue labbra uscivano soltanto monosillabi, ma si vedeva che i pensieri lo assillavano. Si capiva che la stazione di Dorf suscitava in lui ben altre idee che quella di andare a prendere qualcuno all'arrivo. Era in attivo scambio epistolare con la pianura. Decisioni maturavano nella sua mente. I preparativi che faceva erano giunti quasi al termine. Castorp non aveva preso molto sul serio le decisioni di suo cugino, fin tanto che egli le aveva enunciate a gran voce. Ma ora, mentre gli si leggeva in viso lo sforzo del pensiero ed egli si comportava come un momento prima, Castorp allibì, perché si rese conto che quel militare era capace di passare ai fatti. Si sbigottì fino a impallidire, per entrambi, per sé e per lui. «Fu possibile? Chi la ia morir?» pensò. E siccome questa era certo una nozione di terza mano, vi si aggiunse anche la pena di un vecchio mai dileguato sospetto, nonché la seguente considerazione. «Possibile che mi lasci solo quassù, me, che pur sono salito soltanto per venire a trovarlo?» E con l'immediata continuazione, «Sarebbe una follia spaventosa, follia talmente spaventosa che mi sento gelare in viso e sento il cuore pulsare irregolarmente, perché se resto quassù solo, e solo resto se lui parte, che io vada con lui è nettamente escluso, ecco che rimango, e qui il cuore mi si ferma addirittura, per sempre, in perpetuo, perché da solo non troverei mai e poi mai la via del ritorno al piano». Questo è il pauroso ragionamento di Castorp. Quello stesso pomeriggio doveva dargli la certezza degli eventi. Joachim parlò chiaro. Il dado fu tratto. Si arrivò di botto alla risoluzione. Dopo il tè scesero nel chiaro scantinato per la visita mensile. Erano i primi di settembre. Entrando nell'aria secca dell'ambulatorio, trovarono il dottor Krokowski alla solita scrivania, mentre il consigliere, molto paonazzo in viso, stava appoggiato alla parete, con le braccia conserte, in una mano lo stetoscopio, col quale si batteva la spalla, e sbadigliava guardando il soffitto. «Pranzato bene, ragazzi?» domandò con voce fiacca, mostrandosi anche in seguito di umore svogliato, malinconico, annoiato. Probabilmente aveva fumato. Avendo finito di visitare Joachim, infilò lo stetoscopio nella tasca del camice e con la grossa mano sinistra si fregò gli occhi, come faceva quando si afflosciava e immalinconiva, un po' macchinalmente, intercalando qualche sbadiglio di malumore, recitò la sentenza. «Beh, Zimsen, sempre avanti e coraggio. Non siamo ancora al punto richiesto dai trattati di fisiologia. C'è ancora qualche intoppo. E anche col Gafki bisognerà mettersi pienamente in regola. Dopo l'ultima volta è salito di un punto. Siamo al 6 questa volta, ma non per questo occorrerà strapparsi i capelli. Quando è venuto stava peggio, se vuole glielo metto nero sul bianco. Aggiungendo ancora 5-6 mesetti...» «Scusi, consigliere», cominciò Joachim. A torso nudo, il petto in fuori, i tacchi uniti, stava sull'attenti e aveva il viso tutto macchiato, come quando Castorp in una certa occasione aveva avuto modo, la prima volta, di notare che nel cugino abbronzato quello era il modo di impallidire. «Se rimane sotto la naia», continuò Behrens scavalcando l'interruzione, «ancora mezzo annetto, può chiamarsi fuori, partire alla conquista di Costantinopoli, assumere il comando supremo delle forze armate. Chissà, nel suo malumore, quante scempiaggini avrebbe infilato ancora, se il contegno imperturbabile di Joachim, la sua palese intenzione di parlare, e di parlare risolutamente, non gli avesse fatto perdere il filo. «Scusi, consigliere», disse Joachim, «desidero comunicarle, con tutto il rispetto, che sono deciso a mettermi in viaggio». Come? Vuol fare il viaggiatore. Credevo che a suo tempo, una volta guarito, volesse fare il soldato. Ecco, devo partire subito, fra 8 giorni. Ma dica un po', ho capito bene. Lei rinuncia alla battaglia e intende tagliare la corda. E lo sa che questa si chiama diserzione. No, consigliere, non la penso così. Io devo raggiungere il reggimento. Benché le dica che fra 6 mesi la potrò certamente dimettere, che invece prima di 6 non la potrò dimettere? Il portamento di Joachim si fece sempre più ufficiale. Egli ritirò il ventre e disse in breve, con voce sforzata: «Sono qui da 1 anno e mezzo. Non posso aspettare ancora. Da principio, consigliere, lei mi disse 1 trimestre. Poi la mia cura fu sempre prolungata di 3 e di 6 mesi. E ancora non sono guarito. Colpa mia?» «No, signore, ma io non posso aspettare. Se non voglio perdere del tutto il collegamento, non posso aspettare quassù la perfetta guarigione. Ora devo scendere al piano. Mi occorre anche il tempo per l'equipaggiamento e altri preparativi.» «Lei si è inteso con la famiglia?» «Mia madre è d'accordo. Tutto è già stabilito. Il 1° ottobre entro come aspirante ufficiale nel 76° reggimento.» «A qualunque rischio?» domandò Berens guardandolo con gli occhi soffusi di sangue. «Signor sì, consigliere», rispose Joachim con le labbra tremanti. «Allora sta bene, Zimsen.» Il consigliere cambiò faccia e mollò in tutti i sensi. «Sta bene, Zimsen. Riposo. Parta con Dio. Come vedo, lei sa quello che vuole. Si assume la responsabilità. Ed è giusto. È affar suo, non mio. Dal momento che si prende ogni responsabilità. Chi fa da sé fa per 3. Lei viaggia senza garanzia. Io non rispondo di nulla. Ma non vuol dire. Tutto può andare a buon fine. Si sta all'aria aperta, con la sua professione, e può darsi benissimo che le faccia bene, che lei riesca a cavarne i piedi.» «Signor sì, consigliere.» «Beh? E lei, giovanotto del mondo borghese, filerà anche lei, penso, no?» Ora toccava a Castorp rispondere. Era pallido come 1 anno prima, alla visita che aveva causato la sua accettazione, nello stesso posto di allora. E di nuovo gli si vedevano chiaramente le pulsazioni del cuore contro le costole. Disse: «Vorrei lasciare la decisione a lei, consigliere.» «A me? Bene.» Lo prese per un braccio, percosse, auscultò, senza dettare, e si spicciò alla svelta. Quando ebbe finito, sentenziò: «Lei può partire.» Castorp balbettò: «Che sarebbe? Come mai? Sono sano.» «Sì, è sano. Il punto quassù a sinistra non conta nulla. L'alterazione non dipende da questo. Da che cosa provenga non lo saprei dire. Sono del parere che non abbia nessuna importanza. Per conto mio può mettersi in viaggio.» «Ma consigliere, forse in questo momento non lo dice sul serio.» «Eh? Non sul serio? Perché? Cosa crede? Che cosa pensa di me? E vorrei sapere. Per chi mi prende? Per un tenutario di...» Thank you. Venne poi la vigilia della partenza e Joachim sbrigò tutto per l'ultima volta. I pasti, la cura a sdraio, le passeggiate, e si accomiatò dai dottori, dalla superiora. Venne la mattina. Joachim si presentò con gli occhi arsi e le mani fredde, perché non aveva dormito tutta la notte. Non mandò giù neanche un boccone. E quando la nana venne ad annunciargli che il bagaglio era caricato, si alzò di scatto per salutare i commensali. Al momento dell'addio la Stor versò lacrime, le facili lacrime senza sale della gente incolta, e poco dopo, alle spalle di Joachim, scotendo la testa e girando di qua e di là la mano aperta, mostrò alla maestra il viso agro per esprimere volgarmente i suoi dubbi circa la salute di Joachim e la sua autorizzazione a partire. Castorp lo notò mentre in piedi stava vuotando la tazza per seguire subito suo cugino. C'erano ancora le mance da distribuire e da rispondere nel vestibolo al saluto ufficiale di un incaricato dell'amministrazione. Come al solito, alcuni pazienti si erano raccolti per assistere alla partenza. La signora Iltis, la Levi color avorio, l'epilettico Popov con la sua fidanzata, tutti agitarono i fazzoletti, mentre la carrozza con la ruota posteriore frenata infilava con strepito la discesa. Joachim aveva ricevuto un omaggio di rose. Aveva il cappello in testa. Castorp no. Era una splendida mattina. La prima mattina di sole dopo un lungo grigiore. Lo Schiahorn, le torri verdi, la cima del monte di Dorf si stagliavano come immutabili segnacoli sull'azzurro e Joachim li guardava. Era quasi peccato, osservò Castorp, che il tempo si fosse messo al bello proprio per la partenza. Era una cattiveria, perché una brutta impressione finale allevia ogni separazione. Al che Joachim, non c'era niente, disse, da alleviare. E quello era un ottimo tempo per esercitazioni. Laggiù li poteva far comodo. A questo aggiunsero ben poco. Certo, stando così le cose per ciascuno e fra loro, non c'era niente da dire. E poi avevano davanti a sé lo zoppo in serpa a fianco del cocchiere. Seduti in alto, sballottolati sui duri cuscini della piccola vettura, si erano lasciati alle spalle il torrente, lo stretto binario. Percorsero la strada tracciata irregolarmente, parallela alla ferrovia, e si fermarono sullo spiazzo sassoso davanti alla stazione di Dorf, che non era molto più di una tettoia. Castorp riconobbe ogni cosa, con sgomento. Dopo il suo arrivo, al primo crepuscolo di 13 mesi prima, non aveva riveduto la stazione. «Ma qui sono arrivato», disse, benché fosse superfluo, e Joachim rispose soltanto «Già». Proprio qui. E pagò il vetturino. Lo zoppo affaccendato provvide a tutto, al biglietto, al bagaglio. I cugini stettero insieme sul marciapiede davanti al treno in miniatura, presso il piccolo scompartimento coi cuscini grigi, sui quali Joachim aveva occupato un posto col soprabito, il rotolo della coperta da viaggio e le rose. «Beh, va dunque a fare il tuo fantastico giuramento», disse Castorp. E Joachim: «Sarà fatto». Che altro? Si affidarono a vicenda l'incarico di portare saluti a quelli di laggiù, a quelli di lassù. Poi Castorp si mise a tracciare segni col bastone sull'asfalto. Quando squillò l'invito a montare in carrozza, si riscosse. Guardò Joachim e questi guardò lui. Si strinsero la mano. Castorp abbozzò un vago sorriso. Gli occhi dell'altro erano seri e tristemente penetranti. «Hans», disse, «gran Dio, era mai avvenuto al mondo un fatto così increscioso? Ora chiamava Hans Castorp per nome, non col solo tu secondo la loro consuetudine di tutta la vita, ma adonta dei modi bruschi e in maniera penosamente eccessiva, col prenome. Hans», disse stringendo con profonda angoscia la mano al cugino, il quale non poté fare a meno di osservare che, commosso com'era, senza aver dormito, con addosso l'inquietudine del viaggio, il collo gli tremava. «Hans», disse con fervore, «vieni presto anche tu». Poi saltò sul predellino. Lo sportello fu sbattuto. Un fischio. Le carrozze si urtarono, la piccola locomotiva si mosse. Il treno scivolò via. Il viaggiatore salutò dal finestrino col cappello lì rimasto con la mano. Col cuore sconvolto, stette lì, ancora a lungo, solo. Poi rifece lentamente la strada che Joachim, a suo tempo, gli aveva fatto percorrere. Piero Baldini ha letto La montagna incantata di Thomas Mann. Riduzione e regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it